Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 27 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 19 aprile 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino. E le cose che sono accadute durante questa settimana, che mi sono accadute durante questa settimana, perché in effetti di cose ne sono accadute tante già dai primissimi giorni della settimana, però quelle che mi sono accadute personalmente e che ho visto e vissuto con mano e che sono qua a esternarvi, insomma, è un avvenimento molto triste da un certo punto di vista, perché in effetti la scomparsa di una persona che si conosce, con cui si è condiviso del tempo in qualche modo, insomma, è un avvenimento triste, mettiamo così, anche se purtroppo è un po' seccante dirlo, perché è una cosa che può capitare effettivamente a chiunque di noi. Arrivati alla fine della vita in quelle condizioni per una malattia, forse la morte è una liberazione più che una condanna. E chiaramente il momento del trapasso è molto difficile da digerire per chiunque, però poi, metabolizzando un po' con il senno di poi, in effetti la vita che era stata vissuta da questa persona, sfortuna sua, negli ultimi, diciamo, 3 mesi di vita, non era chiaramente vita, era un surrogato, era un restare attaccato alla forza che uno ha di andare avanti, ma è proprio tipo un andare avanti giorno per giorno, ma senza più scopi, senza più mete, senza più niente di niente. Quindi ad un certo momento forse è molto molto molto dura sia dirlo che accettarlo che metabolizzarlo, però probabilmente in certi casi è effettivamente preferibile che finalmente giunga la morte, che in un certo momento ci libera dalle pene che stiamo vivendo in vita, nella fine della vita. In questo caso comprendo magari le persone che dopo anni, anni, anni, anni di una vita magari vissuta dopo un incidente o dopo un qualcosa paralizzata, ci sono persone che non riescono a muovere altro se non gli occhi, insomma, io comprendo tutto, però effettivamente riuscire a pensare che quella sia una vita che sta andando da qualche parte mi riesce molto difficile. Poi probabilmente a chi gli capita di viverla gli capita per un motivo che chiaramente non sappiamo, che chiaramente è più alto di noi, però al di là di questo, anche se è questo, comprendo benissimo chi a un certo punto alza bandiera bianca. Però non è l'argomento principale della puntata di oggi, è solo quello che è accaduto che mi ha dato il là per stare ad esternarvi quello che io trovo molto molto molto brutto. Ad esempio, questa persona in questione, durante gli ultimi mesi di vita, che sfortuna sua è entrato in ospedale qualche mese fa, poi purtroppo non è più uscito vivo da lì, so che riceveva molte poche visite. Ora, sinceramente comprendo benissimo, perché da un certo punto di vista il disagio l'ho provato anche io. Poi diciamo, sono stato messo sulla strada diversa, su una strada diversa da una persona, e ho preso il coraggio a due mani e mi sono recato in visita. Quindi però comprendo anche chi non riesce a magari fare questo passo, magari o infastidito dall'ospedale, magari infastidito dall'idea della morte, magari esorcizza così la morte, io non lo so, ognuno c'avrà le sue mille ragioni. Quello che però succede succede più o meno spesso, più o meno sempre, quando una persona se ne va nell'era moderna, è la morte 2.0. questa notizia rimbalza come un tantam mediatico che non si riesce a fermare, rimbalza su internet, chiaramente rimbalza sui social network, e lì le persone che non sono mai state vicine realmente allo sfortunato in questione, al malcapitato in questione, si prodigano in commenti strappalacrime, in cose, anche in bugie che fanno parte della vita. Però chiaramente chi ha conosciuto la persona in questione e tutto quanto lo sa queste cose, e a me mi viene di dire: ma perché lo fate? Cioè, aprite i social network e commentate la notizia della morte di un qualcuno solo per ricevere un like, solo per ricevere una faccina triste? Che modo è questo di partecipare al dolore magari dei congiunti, magari dei genitori, magari dei figli, magari degli amici più stretti o degli affetti più cari? Quindi perché fare questo? Perché fare questo invece di essere realmente presenti fino all'ultimo? E questo io ci ho un po' pensato su, perché la cosa mi ha veramente un po' fatto pensare, mi ha veramente fatto pensare. E chiaramente non arrivo ad una risposta, boh, ve lo sto dicendo perché questo l'ho interiorizzato, l'ho dentro di me e ho bisogno di condividerlo con voi, perché magari una vostra idea in qualche modo arriva a me. Però io la trovo una cosa veramente di cattivo gusto andare su un social network e scrivere da 0 a 100 dei commenti che poi sembrano un po' frasi fatte, un po' frasi riprese da qualche aforisma, frasi citate, proprio perché magari non si ha veramente niente dentro al cuore da dire sulla persona che non c'è più, da dire ai familiari, boh, da una pacca sulla spalla, anche se virtuale, però si vede benissimo che avete copiato un messaggio di qualcun altro, e che siccome a voi magari questo messaggio vi piace, siccome a voi vi ha strappato una lacrima, che ne so, perché era un messaggio rivolto, che ne so, a Martin Luther King, ora faccio per dire una cosa a caso, quindi vi ha strappato una lacrima, e allora boom, lo riproponete, magari cambiate una parola, ci mettete il nome giusto, lo riproponete, perché con la speranza che strappi una lacrima anche a qualcun altro, e che quindi la vostra considerazione nei confronti degli altri sia accresciuta. Lo fate per questo? Io non capisco perché lo fate. Mi piacerebbe scoprirlo. Sono un po' perplesso, sono veramente perplesso da questa cosa, e sono qua a dirvelo. La trovo molto brutta, tutto qua. Non ho veramente molte altre parole da dire oggi, perché in effetti questa cosa mi ha lasciato molto molto sconcertato, e quindi direi che è arrivato il momento di passare, cambiamo un attimino argomento perché forse è un po' meglio per tutti in questo momento, è arrivato il momento di passare alla rubrica del caffone vagabondo. E il caffone vagabondo di oggi è un caffone che, se nelle ultime puntate del caffone vagabondo siete stati forse non coinvolti direttamente, a questo giro vi beccherò in tantissimi di voi, perché il caffone vagabondo sono anche io, non è altro che una persona qualunque che consuma, che va quindi al bar, che va quindi nei negozi di abbigliamento, che va quindi al ristorante, che va quindi fuori. Ma partiamo, siamo italiani e sì, la pizza, quindi il caffone della pizzeria probabilmente esiste, ma ancora non l'ho ben individuato. Però il caffone del caffè, il caffone del bar, del caffè inteso come il bar, chiaramente già per il fatto di essere italiani il caffè è una cafonaggine allucinante, perché e lo vogliamo alto, basso, macchiato, stretto, lungo, corto, con la schiuma, senza schiuma, con il latte di soia, con il latte di riso, con il latte caldo ma senza schiuma, con il latte freddo ma con la schiuma, in tazza piccola, in tazza grande, in tazza fredda, in tazza calda, in vetro, lo vogliamo nelle mille modi, nei milioni di modi più impensabili, quando più o meno in tutto il resto del mondo il caffè è espresso oppure lungo, proprio il massimo. Poi anche lì il caffè lungo in qualche modo il barista riesce a gestirlo, perché quando la tazza è piena più lungo di in quel modo non può arrivare, ma il caffè corto, lì c'è una sottocategoria del caffone, il caffè corto, e a volte glielo fai troppo corto e ti guarda male, e a volte glielo fai troppo lungo e ti guarda male, cioè è incredibile. E a volte la tazzina non è troppo calda al punto giusto, e a volte è fredda al punto sbagliato, insomma è una cosa allucinante. Però questo, diciamo, qui vi ho beccato tutti, me compreso, perché io sono il primo di questi cafoni. Però poi ci sono dei sottocafoni, sono delle sottocategorie di cafonaggine che si consumano al bar, e una di queste è ad esempio quello che va in qualsiasi posto. Allora, normalmente in qualsiasi posto andiamo, cosa succede? Prendiamo quello che dobbiamo prendere, ci rechiamo alla cassa e paghiamo, al supermercato, ad uno sportello pubblico, a Intimissimi, che ne so, alla Rinascente, in libreria, da qualsiasi parte è così, da qualsiasi parte si prende quello che serve e poi andiamo alla cassa e paghiamo, oppure prima andiamo alla cassa e poi andiamo a consumare, quello dipende in che posto siamo. Ma al bar cosa succede? Al bar, a meno che il bar non ti faccia fare lo scontrino prima, e lì è il caffone, è il barista, perché secondo me far fare lo scontrino prima è da caffone. È vero che al bar gli spariscono, se non fa così gli spariscono le cose, questo è chiaro, perché siamo dei caffoni che per non pagare un caffè ci inventiamo le peggio whiskerate. Però prendiamo il caffè, prendiamo il cappuccino, prendiamo il cornetto, prendiamo il panino, prendiamo quello che prendiamo, e poi piantiamo la catena lì nel punto preciso del bancone dove stiamo, mettiamo l'euro lì e lo facciamo vedere al barista, se il barista è alla cassa che è un po' distante, glielo sventoliamo, iniziamo a batterlo sul bancone del bar creando quel suono fastidiosissimo che proprio non si può sentire, oppure stiamo lì, lo lasciamo lì e ce ne andiamo, quindi senza scontrino, con il rischio che fuori ci sia la finanza che faccia passare un brutto guaio sia a te che esci senza, sia al barista che suo malgrado non ti ha fatto in quel momento lo scontrino perché te hai messo l'euro lì e te ne sei andato alla zitta. E allora dico, ma siccome lo facciamo dappertutto, ma cosa ci vorrebbe ad essere un po' meno cafoni e riuscire ad andare anche al bar a pagare alla cassa? Bene, cari amici, questa era la puntata numero 27 del Vagabondo in giro per il mondo di questa settimana, e nell'augurio che abbiate passato una buona Pasqua e che la prossima settimana sia di grandi soddisfazioni per tutti voi, vi ringrazio e come sempre siate saggi!